Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, sono Stefano Dainese, come sempre lunedì sera con voi. Questa sera non sono solo in studio, ancora una volta abbiamo il piacere di ospitare dei musicisti, questa volta uno straniero, che è accompagnato anche da una gradevole presenza femminile. Si fa chiamare The Bonnie King of Nowhere e viene dal Belgio. Welcome in our show. Thank you. Bram, can I call you Bram? Of course. Sì, il suo vero nome è Bram. Si fa chiamare appunto The Bonnie King of Nowhere. Gli chiedo subito come mai. First question, of course, is obvious. Why this name instead of using your birth name? That's a very good question, actually. You think so? It's I don't know. It doesn't really. It's always like when I say my name, people don't understand the name. So okay, but so if I say the Bonnie King of Nowhere, they don't understand as well. No, so I guess I don't know. I don't really think about the name. It's just some name. You know. Pare che non ci sia una ragione ben precisa perché ha cambiato nome. Il suo, la gente non capiva il suo nome, che è Bram. What's your second name? Bram? Van Parijs. It means from Paris. Ah, ok. Mm. Avete sentito la pronuncia fiamminga, che non è nelle mie capacità, e significa che è proveniente da Parigi. Appunto, ha voluto cambiarsi questo nome perché nessuno lo capiva. Ha deciso di farsi chiamare The Bonnie King of Nowhere, ma ha detto che il risultato non è stato poi così brillante perché la gente continua a non afferrarlo molto. Ma queste parole, questa definizione, il Bonnie King of Nowhere, l'ossuto sire del niente, se non sbaglio, viene da una canzone di Radiohead. This is coming from a Radiohead song there. Mm-hmm. Am I right? Yeah, exactly. So it's like a statement you make. Not really. Come un'affermazione, intendo, di usare una canzone di Radiohead come nome o no? It was not really meant as a statement, but I was inspired by Tom York because he took his name Radiohead. It's a song by Talking Heads. Yeah. And I was more inspired by the idea of picking a song title, you know. So I started looking into Radiohead's song collections, and nice. I ended up with this name. So. Sì, ha detto che siccome i Radiohead hanno preso il loro nome da una canzone dei Talking Heads, ha voluto fare lo stesso, siccome gli piacciono molto i Radiohead, e cercando appunto nel loro catalogo ha trovato questa definizione, questo personaggio, The Bonnie King of Nowhere, e ha voluto prenderlo. Allora, lui è qui per presentarci il suo nuovo album che si intitola Eleanor, il secondo della sua discografia. E ci ascoltiamo subito il primo brano, che fra l'altro è quello che apre il disco ed è anche quello in cui la vicinanza con Tom York secondo me si sente maggiormente. Si intitola Sleeping Miners, da The Bonnie King of Nowhere, qui su Rock Wave. Buon ascolto a tutti. The these wounded minds, so very old, where the sun never shines, so very cold. Don't Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questo primo brano era Sleeping Miners, i minatori che dormono. Non so se è riferito a Sleeping Miners. Is it referred to the coal mines in Belgium or alle miniere che ci sono in Belgio? Why did you write a song about miners? It's about the mines and some. We have some history concerning the mines in Belgium. So, but I don't know if it's really about the mines in Belgium. It's more about old mines, any kind of mines. Okay, si dice che hanno delle storie naturalmente sulle miniere in Belgio, che è un paese che, come sappiamo, ha una lunga storia appunto a riguardo, però la canzone non è specificamente riferita a quello, ma è un po' in generale per sulle miniere. It's about the people who work in mines. No, it's more about old mines that are already abandoned. Yeah, that are just left and where there is no more coal or diamonds or gold or anything. Yeah, si è più una canzone sulle miniere abbandonate. E questo disco che sta appunto presentando è il secondo, segue il disco d'esordio intitolato Alas My Love, che ha avuto un ottimo successo in Belgio. I understand that in Belgium your first record has a very good review and success, am I right? Well, it's yeah, probably you're right. I don't know. Dice, forse hai ragione, non lo so, dovrebbe saperlo più di me veramente, ma. I mean, it was very well received by some people and by the press, and so I was kind of lucky, I guess. Dice, sono stato un po' fortunato, penso, perché appunto è stato il disco è stato gradito dalla gente e dalla stampa, ma penso che sia anche una questione di talento. Being lucky is not enough. I mean, the record must be good to have this kind of reviews. So usually it works like that. What do you think? I don't know. What do you want me to say? That dice che non sa cosa voglio. I'm not trying to. you to say I'm great, you know? Sto cercando yeah, di fargli dire sono, I love the record. It's, but no, to be honest, I'm quite proud of the record, and I was just lucky that it was well received. And sì, dice che è stato anche fortunato. Naturalmente c'è anche, bisogna essere anche fortunati, perché ci sono mille cose che possono influenzare. Of course you must be lucky, because if you're unlucky nothing works. But exactly, forse yeah. Il fatto però di venire da un paese come il Belgio può, in questo caso può essere stato forse un vantaggio. Being from Belgium maybe works better for you, because nobody was expecting this kind of music from Belgium. Forse nessuno si aspettava un musicista di questo tipo dal Belgio. That's I don't know. Yeah, we do have, I must say, we do have some, the scene in Belgium is quite rock based. It's heavy. Yeah, we're not really into that folk kind of thing. So you're not part of a scene. Yeah, not really. Sì, ecco, dice che lui non è assolutamente parte di una scena, perché in Belgio ci sono molti gruppi rock, diciamo abbastanza energici, ma cose più vicine al folk, come fa lui, sono abbastanza inusuali. Per cui probabilmente, almeno questa è la mia opinione, è emerso anche per questo. Maybe this was very good for you, because you were unique. And being different from the others is always an advantage, no? Yeah, well, I don't see it that way. I was a little unique in Belgium, but I mean, there has been thousands of songwriters, folk writers in America, and yeah, that's what I was saying. I mean, I realize I'm not the first person playing the guitar and writing songs. I mean, si dice appunto che lui è probabilmente è un caso particolare in Belgio, che è proprio quello che intendevo dire io. Insomma, alla fine, detto, se fosse americano, ce ne sono tanti altri che suonano la chitarra in stile folk, eccetera. Invece in Belgio è un po' una mosca bianca. Però quello che fa la differenza, soprattutto in questo tipo di musica, è la qualità della scrittura, che nel suo caso è veramente alta. What I'm saying is that, as you said, there are thousands of people playing folk music, and what makes a difference is the quality of songwriting. And in my opinion, your songwriting is much over the average. You can stay out because of that, I think. Okay. Thank you. You're welcome. Sì, insomma, gli ho spiegato quello che ho appena detto. E adesso credo che I think it's time for playing for you. I would love to. Yeah. Okay. Ha detto che ama l'idea di suonare. What song are you going to play? Che canzone ci canti? Maybe I would like to do. Maybe I would like to do a song I wrote for a movie. Una canzone che ho scritto per un film. Yeah, a Belgian movie. That was released just last year in October, I think. Uscito l'anno scorso in ottobre. So yeah, I would like to do that. What's song. The title? Che titolo ha il it's, film? Giusto per curiosità. It's called For the Autumn. For the Autumn? Yeah, exactly. 40 autunni. Yeah. But this is the English title, of course, because the movie is in Flemish. The movie is called Legion, so it's a French. Allora quello è il titolo della canzone For the Autumns. Yeah. E il film si intitola Legion. Legion. Legion. So it means the giants. Al gigante, Legion. Yes. I suppose that is there's no way to see it in Italy. No, non c'è nessuna speranza di vederlo in Italia. Vabbè, ci abbiamo la colonna sonora, però la canzone intitolata Four Atoms, che adesso Bram, The Bonnie King of Nowhere, ci suonerà dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Blu Radio. My darling young one, loved her heart. You spend many nights sleeping alone, waiting for her to open the door. Oh, she never told you anything. You thought that you were afraid. Autumn was cold and you were born 12 years ago when father was gone. Oh, you are young and alone. You are young. Bellissima melodia anche questa Four Autumns, che non so poi se è un disco, se è reperibile anche su dischi. Is this song in any record? It's on the soundtrack. Okay. Of that, I wrote the whole soundtrack for that movie and it's on the soundtrack. Ok, allora ho scritto tutta la colonna sonora di questo film e questa canzone appartiene appunto al disco della colonna sonora. A questo punto gli chiedo se gli altri pezzi sono strumentali. All the other songs are instrumentals? Or? There are a few instrumental songs and it's 50-50, I guess. Circa metà strumentali e metà cantate. Mai viene un po' la curiosità su questo film, se è un poliziesco o un dramma. I'm just curious what kind of movie is that? It's a movie. Well, it's maybe easier to tell what it's about. It's about two brothers that are left alone by their mother. It's two brothers from 13 and 14 years old, so just kids. And they're left alone by their mother in the house of their grandfather, who died. So it's an empty house, and they have to pass the summer over there. So it's more like an adventure of two brothers discovering the world, discovering the world, and having fun in the woods and the nature. And but if you watch the movie as a kid, it's really an interesting, adventurous movie. But if you watch it as an adult, it's more like a sad movie, because you realize that the mother just left them alone, and it's not really easy to explain it, because the atmosphere of the movie is really, really important. Ok, sì, ha detto, è un film su due fratelli di 13-14 anni abbandonati dalla madre, che vanno a vivere nella casa del nonno defunto e quindi restano soli, devono passare l'intera estate da soli. E dal punto di vista, se lo vede diciamo un ragazzo, lo può considerare un film d'avventura, perché ci sono appunto due ragazzini da soli che affrontano il mondo, quindi con tutta diciamo, l'emozione che si può avere a quell'età, essere al di fuori del controllo degli adulti. Mentre se lo si vede da un'ottica adulta è un po' un film triste, perché si vedono due ragazzini che sono stati abbandonati dalla madre, ma dice che è un film dalle atmosfere affascinanti, magari se si riesce a metterci le mani sopra sarebbe interessante, anche se bisogna, non so in che lingua il film is spoken in French, Flemish, it's spoken in French, ok, è parlato in francese, perché quando si ha a che fare con i belgi non si sa mai, when you talk with Belgians you don't, you never know what language is involved, exactly, yeah. Bram viene dalla parte fiamminga del Belgio, da Gand o Ghent, una città che ha due nomi come tutte le città belghe, è una città molto bella fra l'altro, molto, molto antica. E è qui anche accompagnato dalla sua ragazza Clio, che poi sentiremo cantare. Lei normalmente suona le tastiere, però qui non le ha portate, quindi saremo prettamente acustici. Saying that Clio usually plays keyboards in your band. Yeah. The band you play with is the same that is in the record? Not really. La band live è la stessa del disco? Or? No, the guitar player and the bass player, they are not the same from the live band. They left the band actually, and we have now. But Cleo is playing the keys on that record, and the drummer is also still the same. Ok, c'è drummer, stato un qualche cambiamento, nel senso che è rimasta Cleo alle tastiere, è rimasto anche il batterista, mentre il chitarrista e il bassista se ne sono andati. Ecco, non dico i nomi perché sono abbastanza impronunciabili. E il disco è stato fatto yeah, the name I don't want to pronounce them because I'm missing it. I'm making a disaster. Sì, dico, i nomi sono abbastanza impronunciabili. Ad esempio il suo nome Vampires, io lo pronuncierei what's the right pronunciation, come si dice? Vampires. Yeah. Ok, peraltro Vampires assomiglia a vampiro e Bram assomiglia a Bram Stoker. Sounds like a vampire story. It's a joke good. Your parents made, no? Non è uno Not scherzo really. Fatto dai genitori, perché il nome Bram è lo stesso di Bram Stoker, che scrisse la storia di Dracula, e Vampires per noi almeno italiani suona molto vampiresco. Ma vi assicuro che non assomiglia per niente a un vampiro, a parte la magrezza, ma quella è un dono di natura. Ci ascoltiamo adesso un altro brano da questo album che vi ricordo si intitola Eleanor, e il titolo del pezzo è Going Home. Far SMS 346 2320 033. Allora, abbiamo ascoltato questa Going Home, che non è un titolo molto originale. It's not the first song with this title I've heard. No, because Leonard Cohen just released his new album, and I think the first song on that album is also called Going Home. Yes, but there are I don't know, dozens of them. Si è detto, è vero che è un titolo molto usato, ma è vero anche che Leonard Cohen nel suo ultimo disco lo ha aperto con una canzone con questo titolo, per cui insomma, se l'ha usato Leonard Cohen, yeah, ok, you're right, if Leonard Cohen can use this title again, you can do it as well. Yeah. Come abbiamo sentito anche, diciamo, dalla canzone dal vivo, ma anche dai due pezzi sul disco, i riferimenti di Brahms sono molto vicini al folk. Ne abbiamo discusso prima della trasmissione, io e lui. Sono rimasto abbastanza sorpreso dallo scoprire che lui non è un grande fan del folk britannico, ma ascolta più musica americana. I'm saying that I've been surprised to hear you saying that you listen more American music, as I thought you were, as I told you, I thought you were a huge fan of 70 British folk. Ci stavamo chiedendo da dove sono arrivate queste ispirazioni, magari attraverso vie traverse. Maybe this inspiration came to you from behind, after a circle through other musicians that listened to that music and then repeat it through you, maybe. I think I got more into American folk music through Bob Dylan, of course. Sì, lui dice che abbiamo ascoltato molta più musica folk americana attraverso Bob Dylan. È interessante anche il fatto che i suoi riferimenti musicali siano tutti musicisti di una generazione molto diversa dalla sua, perché Brahms ha 26 anni. It's interesting, you listen to a lot of very old music, especially compared to your age. Cosa ci trovi in queste cose che non trovi nella musica magari più moderna? What do you find in these records that maybe you can find in musicians of the same age yours? You mean what I like about that? Yes, what I like. What's the reason why you catch by those records? I don't know. I think it's more. There are a few reasons. One of the reasons is that I think it's more real, because a lot of music back in the 60s was recorded live, and has the feeling of those records are just completely different than the new records. And it's cliche to say that, I know, but you know, mistakes in music makes it. I mean, it's it a well real. Known. It's a well known fact, of course, but it makes it more alive. And I must say, I really like that. I prefer it above, you know, a really studio album that is perfect. And well, and know, plastic sound. Yeah. Se dice che molti dischi degli anni 60, questa potrebbe essere una delle ragioni per cui gli piacciono, erano praticamente registrati dal vivo senza sovraincisioni e altri lavori, e questo li rendeva molto più reali, molto più vicini alla vita, diciamo, a un concerto dal vivo, mentre quando poi si è cominciato a lavorare troppo in studio, questo ha reso i dischi un po' asettici. È vero anche che molti dischi, che forse adesso si sta un po' tornando indietro, ma per molti anni i dischi suonavano un po' tutti nella stessa maniera. I think that in these days, in the last years, people is coming back to what you were saying. Yeah, because exactly. for many years, all the records sounded the same. Yeah, exactly. Me too, I have the feeling that like bands like Wilco or something, they understand that... it's not because you have the possibility to edit every second instrument and to play to record it separately. It's not because you have the ability to do that you have to do it. I mean, in the first place, if you hear a band playing, you should hear a band playing, you know, and you shouldn't hear all the musicians playing separately. Yeah. Si dice che, faccia l'esempio di una band come i Wilco, appunto, che registrano in questa maniera molto, molto vera, perché anche se hai la possibilità di andare a ritoccare ogni singolo strumento, è una possibilità, ma non è che dovresti farlo sempre, perché l'idea è che se c'è una band che suona dovresti sentire appunto una band e non ogni singolo strumento perfetto per conto suo. Direi che a questo proposito, secondo me, questa è la mia opinione, uno dei gruppi che ha lavorato molto in questa direzione negli anni passati e che è stato poi imitato molto sono i Pearl Jam, che per anni avevano dei dischi che suonavano in maniera completamente diversa dagli altri. What you're saying reminds me of the work that Pearl Jam made, because for a few years Pearl Jam records were sounding completely different from any other record. Because they were playing together in the same room. Exactly. I must admit that I'm not really familiar with Pearl Jam, but if I listen to, for example, Nirvana Unplugged, yeah, just an example, you know. Okay, that was a live record. I know it's a live record, but I think it's one of their best records, and it's. I'm happy that they released that record back in the 90s where everything was really tight and clean and very hi-fi, and I'm really glad. For me, the Nirvana Unplugged record is more like a 60s record. I mean, sì, ecco, lui faceva più che Pearl Jam, faceva l'esempio dell'Unplugged di Nirvana, è molto contento, ha detto che lo abbiano pubblicato e che abbia avuto anche tanto successo perché è uno dei loro dischi migliori, perché si sente proprio la realtà della musica in quel disco, che come sappiamo è stato registrato appunto in presa diretta e magari dal punto di vista tecnico non è certo perfetto, però è molto vivo e appunto per questo resta un ottimo esempio. Yeah, that record is not perfect technically speaking. I mean, there's a few mistakes they make, but makes it's real. It's full of mistakes, but it's just the real thing. You cannot really talk about this for ages. It's just I can only say this. It should be alive, you know, and the music should be alive, that's all I can say about it. Sì, dice bisogna potersi rendere conto che un disco è dal vivo, insomma, che c'è veramente la vita dentro. In effetti, negli anni 90 uscivano anche dei dischi dal vivo che sembravano fatti in studio. In the 90s I've heard some live records that sounded exactly like a studio record. It yeah. was the opposite of that, with some people clapping between mm-hmm. ones, between songs. Sì, c'era qualche applauso aggiunto fra una canzone e l'altra. Bene, vi ricordo che questo è Rock Wave, siamo su Blu Radio Veneto, siamo dal vivo qui in studio con The Bonnie King of Nowhere, che adesso ci canterà un'altra canzone. Will you play another song I for can us? Do that. I can do that. Yeah, you can do that. Sì, posso farlo. And which song is this? Well, since we're talking about 60s stuff, I would like to do a very, very old song. It was written even before the 60s. It's a traditional. It's called Long Black Veil. Okay. And it's brought to my attention by Johnny Cash, actually. I know the song. Si dice che visto che stiamo parlando della musica del passato, gli piace l'idea di cantarci Long Black Veil, che è un traditional, che poi è stato rifatto da vari musicisti, ma che lui ha particolarmente apprezzato nella versione dell'immortale Johnny Cash. So it's always great to listen to this song. Bellissimo ascoltare questa canzone Long Black Veil, allora, da The Bonnie King of Nowhere dal vivo. Ten years ago on a cold dark night, someone was killed neath the town hall light. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night wind wails. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi if you were somewhere else? Then you won't have to die. But I spoke not a word, though it meant my life, for I've been in the arms of my best friend's wife. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night wind wails. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The scaffold is high, eternity's near, and she stood there in the crowd and shed not a tear. Oh, but sometimes at night, when the cold wind it moans, I visit her grave and cries over my bones. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night wind wails. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Nobody knows but me. Una melodia immortale questa di Long Black Veil. Abbiamo sentito anche la voce di Clio, la voce femminile che accompagnava Bram, appunto, che oggi è solo in questa piccola veste di corista, visto che non abbiamo potuto mettere, cioè non ha dietro le tastiere, quindi non c'era modo, insomma, di farle suonare il suo strumento. Comunque direi che la sua presenza era notevolmente importante in questa canzone. Bram, non so se è la prima volta che... Is this your first time in Italy? It is. Okay, and you've been in Italy for a long time. È stato qui in Italia già da 15 giorni. Well, it's not really that long, for 16 days. No? Yeah, 16, 16 giorni, quindi. e starà qui ancora per una settimana circa. Suonerà anche a Padova alla Mela di Newton venerdì prossimo, adesso venerdì santo fra l'altro, che deve essere il giorno 6 credo, non ho il calendario davanti, non vorrei dire una stupidaggine. I'm announcing your show here in, in Padova on next Friday. E, così sono curioso di chiedergli che impressione ha avuto del pubblico italiano, visto che fra l'altro ha conosciuto l'Italia dal sud al nord. So you traveled a lot in Italy in these 15 days, and from the south to north. And what are you feeling about it? How was the people? And, were they surprised from a guy from Belgium playing this kind of music? Erano sorpresi che un tipo che un belga suoni questo tipo di musica? Well, at first people didn't really know that I was from Belgium. They just saw some guy playing some songs on a guitar. So si dice che molti non hanno idea che lui venga dal Belgio, quindi è soltanto un tipo che suona delle canzoni con la chitarra. And what are your feeling about the Italian audience? È sembrata il pubblico italiano. It's strange because Italy is such a big country, not really big, but it's kind of long, no. and that stretched. Yeah, and that's why there is quite a big difference between the people up in the north and the people up in Sicily and in the south of Italy. So it is kind of strange too. I started a tour in Milano and then I went to Roma and then I went to Palermo and Catania, and I must say you get a lot of information if you I did almost 5,000 kilometers now in the past 16 days and 5,000. Yeah, already 5,000. You know, I came all the way back from Belgium, and it's quite intense to feel all these different people and these different atmospheres. And yeah, dice che è partito da Milano e poi è andato a Roma e poi giù in Sicilia e poi adesso è tornato su, quindi ha potuto anche rendersi conto delle differenze che ci sono fra il nord e il sud dell'Italia, fra la gente del nord e del sud. Ha fatto 5.000 chilometri in 15 giorni e quindi è stato molto interessante per lui riuscire a capire un po' anche, dice che facendo questo si riesce a percepire maggiormente anche forse l'atmosfera. Io penso che sia molto più profondo questo tipo di contatto che quello che ha un normale turista. I think that what you are doing, of course, is also your job, but it's not really my job. It's well, playing music is your job, right? Yeah, but I don't like to call it a job. It's more the thing I. Non gli piace chiamarlo lavoro. Sì, beh, è una cosa che è contento di fare. Well, it's very good to get money from the things that you like to do. Of course. Dico che è molto meglio guadagnare qualcosa facendo una cosa che ami piuttosto che un vero lavoro, diciamo. Ma what I'm asking you is, do you think that this kind of traveling around the country gives you a better knowledge of the place compared definitely. To a normal tourist that definitely works around taking pictures? I'm sure, really. I met some people, I've been to places that I wouldn't have seen, or people I wouldn't have met when I was just a tourist. I mean every day I meet people from the cities I play in, and they sometimes I meet them the day after and we go visit some place, or we just hang out in the city after the concert, or they show me the best place in town or the best I even met someone in Alcamo back in Sicily whose father was making olive oil, and he invited me over to his house the next day to have coffee, and he gave me 5 liters of olive oil, because the olive oil in Belgium, you should know, is really bad quality. So Sì, no. Dice che questo modo di girare un paese può essere molto affascinante perché ha l'opportunità di conoscere sempre le nuove persone, e molte persone lo hanno poi rincontrato il giorno dopo il concerto, l'hanno portato in giro per varie città. E ad Alcamo in Sicilia ha conosciuto un ragazzo il cui padre produce olio d'oliva e che lo ha invitato a casa del padre, gli ha dato appunto 5 litri di olio, che ha detto che è un altro mondo rispetto a quello che si trova in Belgio. Mi stupisco. Ascoltiamoci un'altra canzone del disco. Questa è la canzone che dà il titolo all'album, si intitola Eleanor. Penso sia una canzone molto importante. I suppose this is a very important song as you choose it to give the name to the whole record. And of course we have Cleo here, I don't know if we can talk about Eleanor. Dico, c'è qui la sua ragazza Cleo, non so se possiamo parlare di questa Eleanor, che non ho idea chi sia. I have no idea who Eleanor is, ma Cleo si è messa le dita nelle orecchie, per cui is she someone who really exists? È qualcuno che esiste veramente, Eleanor? But I really have to disappoint you because I cannot answer this question, because everything you say will be used against you. No, dice, no, non posso really, rispondere just, a questa domanda. Faceva un po' l'interrogatorio di polizia. Io questo, se ha paura che lo usiamo contro di lui. It's a state of mind, è un'idea. It should be clear from the song, actually. Yeah. Ok, dice che sarà chiaro dalla canzone. Magari poi vi traduco un po' il testo. Allora, ce l'ascoltiamo adesso, la canzone che è scelta anche come traino dell'album. Si intitola Eleanor. So I gather all the pieces that you have lost, and will you show me your true face so very calm? Raise your about it. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eleanor, un brano che a me ricorda un po' dei vecchi hit pop degli anni 70. I don't know, the songs remind me some old 70s pop records, like, you know, the Walker Brothers. Maybe it's more like 80s pop music you hear. I don't think so. Yeah, lui dice che è più che una musica degli anni 80. La musica degli anni 80 aveva sempre roba. Everything in the 80s had electronic drums. There was nothing so clean and acoustic. No, it's true. And simple. Per quello dico che mi ricordo gli anni 70, perché negli anni 80 dovevano mettere i sintetizzatori ovunque, c'era sempre una batteria elettronica sotto, e invece prima era più nature, diciamo, più semplice. That's my la mia opinione, naturalmente. Okay. Ma non, did you have the 80s in mind when you wrote this song? In mente gli anni 80? I struggled with the song for 6 months and I finished the song the day Michael Jackson died. Oh. So that's why I thought maybe you hear some 80s pop tunes in that song, because I was really struggling with that song. I couldn't finish it for 6 months, and then suddenly I finished it, and the next morning I woke up and I read in the newspaper Michael Jackson died. So I mean, I can't see any connection, honestly. There is some kind of connection. I'd love to believe that. Si dice che c'è stata questa strana combinazione di tempi, perché lui per 6 mesi era rimasto bloccato con questa canzone, non riusciva a finirla. Poi finalmente un giorno ha trovato la strada giusta, insomma, era molto contento perché era riuscito a finire la canzone, e la mattina dopo si è svegliato e ha letto che era morto Michael Jackson, per cui automaticamente gli è venuta questa connessione con gli anni 80. Devo dire che io non sento niente di Michael Jackson nella sua musica. I don't hear anything of Michael Jackson in your music, honestly. It's the truth, really. I believe the spirit of Michael Jackson was in me that night. Dice che lo spirito di Michael Jackson era in lui quella notte, mi pare. Va bene, storie di fantasmi, ghost stories. So can you play something more for us? I can, yeah. Okay. I'd love to. What songs? Cosa ci suoni adesso? I can play another a song for the third record. It's for the third record. The upcoming record. You ah, know, the next the next album that. Ok, quindi ci dà un'anteprima del prossimo disco, che quindi è già. So you have already plans to record a new record when? October. October. Yeah. So it will be out in 2013. No, it will be out this in October 2012. Ah, it will be out. I thought you were going to record it. No, I'm going to record it in summer. Ok, quindi il disco, io ho capito che lo voleva registrare in ottobre, invece è programmato per uscire ad ottobre e verrà registrato durante l'estate, quindi fra non molto. So it's a record every year, like it used to be in the 60s, un disco all'anno come si faceva negli anni 60. I'm quite fan of that idea to not, you know, not to have 3 or 4 years in between every record. It's quite long, I think. Yeah. It's I would love to release one record for each year, but it's kind of difficult because nowadays the promotion of records takes much longer than it used to be in the 60s and the 70s. You stay 20 days in Italy. I mean, I'm still promoting this record, and it's been out for more than a year now, so it's quite intense to promote your records nowadays. Si dice che gli piacerebbe fare come negli anni 60, cioè fare un disco all'anno, però si rende conto che è molto difficile, perché adesso, insomma, la promozione di un disco impiega molto tempo. Io gli ho fatto notare, appunto, che se sta 20 giorni solo in Italia, e in effetti dice che il disco è uscito da più di un anno e sta ancora andando in giro per promuoverlo, quindi è chiaro che l'obiettivo di fare un disco all'anno è abbastanza improbabile, però ci prova, insomma. E allora adesso ci fa sentire un'anticipazione del nuovo disco. What's the title of the song? Come the title of the song is Night of Longing. Night of Longing, una notte di attesa, di nostalgia, di attesa si può dire. Ok, sempre dal vivo, The Bonnie King of Nowhere, qui su Blu Radio Veneto per Rockwave. Buon ascolto a tutti. Longing, penso che, visto che durante questa prossima estate il disco sia praticamente pronto, I suppose that all the songs of the new records are ready or almost ready. Not really, I'm still writing new songs. Sta ancora scrivendo, but you're going to go to record it very soon as. Yeah, I'm going to record it in June or something like that. Sì, lo registrerà a giugno. Forse lavora meglio sotto pressione. You work better under pressure if you have a timeline to. I don't know, but I work when I get a lot of new information. You know, when I'm traveling. Ah, okay. That helps. I get a lot of inspiration when I'm now on the road through Italy. it inspires me a lot. So I have to do things. I have to, if I just stay at home and sit on a chair every day, it's boring and I don't get any inspiration. I really have to meet people and do things, and then the songs come. Ah, interessante, dice che appunto sta ancora scrivendo le canzoni del disco, ma il fatto di essere in giro anche qua in Italia e in altri paesi aiuta molto, perché quando si muove, conosce gente, ha informazioni, ha stimoli, questo lo porta a scrivere con molta più facilità, mentre se sta a casa a bighellonare, diciamo, non nasce niente. E una cosa che notavo, che anche questo è un atteggiamento molto anni 60, è che il disco, questo Eleanor, nove canzoni, un minutaggio ridotto come si usava all'epoca del vinile. Another thing that connects you to the music from the 60s is the length of the record, only 9 songs. Mm-hmm. And not 70 minutes record. Mm-hmm. Like many people do after 5 years. Yeah. And so the new record will be on the same, il nuovo disco sarà sullo stesso stile, suppongo. I suppose it will be more or less on the same same style, or it will be in the same atmosphere maybe, but it's a solo record actually, so it's only voice and guitar, so it's quite basic. It's just songs and lyrics, like here. And yeah, si dice che invece il nuovo disco in realtà sarà un po' diverso, perché l'idea è di farlo in acustico, da solo, quindi voce e chitarra, che è un po' più difficile secondo me. In my opinion it's more complicated to make a record completely by yourself, because you have no backup. But that's just the interesting part about it. You cannot hide behind an interesting arrangement, or you cannot hide anywhere. I mean, it's just guitar, voice, and the lyrics have to be really strong, and you have to, your song has to contain a certain hook, you know, the melody is also, I mean, everything about the song has to be really 100%. Yeah, I understand what you say. Si dice che un disco così semplice, poi in realtà è d'accordo con me, è più difficile, perché si è nudi, insomma, si è scoperti, non si ha la possibilità di sistemare la canzone con un arrangiamento complicato o con qualche suono particolarmente riuscito. Bisogna che anche i testi, ad esempio, siano molto, molto solidi, perché chiaramente quando non ci sono grandi arrangiamenti dietro, le parole arrivano in primo piano. Adesso ci ascoltiamo un altro brano dall'album Eleanor, si intitola Some Are Fearful. I have a feeling there is a man, he knows who I am, he knows where I'm going now. Last time he took me away, I ended up alone in a bed with my eyes wide open. Some are fearful, but I am not. Down in the alley, I'm waiting to meet my whole life. Then I wake up, I feel I'm not alone. They ask me about my beliefs, so I tell them this. Well, he takes care of me when I go out. I face them and then close the door. How do I know? Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Summer Fearful era il titolo del brano che abbiamo ascoltato, con una melodia molto ampia, diciamo. This song has a huge melody. Mm-hmm. It's, I can understand this is a song that you cannot play solo. It's more. It's, I it's never play it solo. It's, infatti, dice una canzone che non suona mai da solo. Yeah. And that's why I want to record that. I wrote all these new songs. I want to be able to play them solo. You know, from the moment you cannot play them solo, for me, in my opinion, I'm not really. I want to be able to play each song solo without needing. Arrangement or without needing a band, yeah, so. Si dice che questo è il motivo per cui il nuovo disco sarà come abbiamo descritto prima, proprio perché ci tiene ad avere più canzoni che può suonare da solo con la chitarra acustica senza il bisogno di una band, mentre questa che abbiamo appena ascoltato era chiaramente un pezzo pensato per la band. Mi chiedo se la canzone era stata anche scritta con la collaborazione. You wrote the song by yourself, this Summer Fearful. Yeah, yeah, of course. Yeah. But you had the band in mind when you wrote the song or not? L'hai scritta pensando già a suonarla con la band? It's more a song from the period I was writing songs and arranging them at the same moment, you know? Okay. Sì, è del periodo in cui scriveva le canzoni e le arrangiava allo stesso momento. Yeah, together with the musicians. Not together with the musicians, but in my head I was writing the song, and in the meantime I was already thinking, yeah, I have this part for the drums and this part for the organ, which makes that this part doesn't really have to be interesting on the guitar because I already have the organ there, and so that's how I wrote some. Not most of the songs were just written on a guitar, but some are Fearful and maybe Hear Them Calling, another song from the record, are two songs that were really written with the arrangement in mind. Sì, dice che in realtà l'arrangiamento era nella sua testa, cioè mentre scriveva la canzone c'erano dei punti in cui diceva, beh, qui non è importante fare niente di interessante con la chitarra perché ci metterò una bella tastiera che riempie il tutto, quindi era già proprio come pensavo una canzone immaginata per essere suonata in questa maniera. E adesso ci suonerà un'altra canzone. So now it's time for another song. It's like I'm giving you commands. No, I'd love to. I'd love to play. Non voglio sembrare di dare ordini, ma lui ama suonare, è venuto qui apposta appunto con questa bella chitarra artigianale. Che canzone ci canti? What song are you going to play? It's again a song with a very familiar name. It's called Traveling Man. Si intitola Traveling Man, un'altra canzone con un titolo molto familiare, molto. I wrote it myself, of course, but it's a title already been used by many artists. Like, si dice, yeah. L'ha scritta lui, ma è un titolo che è stato usato già da molti altri musicisti. C'è da dire che è un titolo che ispira molto. It's because it's titled that can inspire a lot of different things. Molte cose diverse. Un uomo che viaggia. No, it's just, fare... just because the subject of the song is a subject that is very familiar with being a human. Si dice che il soggetto della canzone, appunto, l'uomo che viaggia, è una cosa comune fra gli umani, insomma, cioè quello di viaggiare è sempre stato un istinto dell'uomo. Yeah, it's this human instinct to travel and to see farther on. Yeah. I can understand. Sì, giustamente dice appunto l'istinto dell'uomo di andare sempre oltre, di cercare, di vedere qualcosa di diverso dalla sua casetta, dal suo villaggio. Allora, Traveling Man, siamo dal vivo con The Bonnie King of Nowhere qui su Blu Radio Veneto. Buona Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. I am a traveling man, to the sky and rise to the sky. I am a man who lives in the sea. I ask some girl, why don't you come with me? She replies, young man, where you live, I cannot breathe. Still, I guide her underneath the whisper of the waves, the whisper of the waves. I am a man put under spell. You can ask me anything, but I will never tell. I'll never breathe a word or even say my name, because everywhere I go, I will always be the same. And I am not afraid. No, I am not afraid. I am a man traveling the road. Day by day, I carry my load. And everywhere I go, people ask me why. Well, one day I'll be free and rise to the sky, and rise to the sky, and rise to the sky. Traveling Man, non so se questo è un brano di un disco. Is this song from any of your records? Yeah, from the upcoming record. From dal prossimo, so it's not on any records yet. Mm-hmm. Sì, ancora è un'altra anticipazione del prossimo disco. Ha un titolo? Does he has a title this new record or not? I think I call it just the Bony King of Nowhere. Ah, probabilmente lo chiamerà semplicemente The Bony King of Nowhere, which is correct with such a record. Penso che vada bene con un disco di questo tipo, because it's you and yourself, lui solo, insomma. Yeah. Ok, works very well. Allora, vi ricordo che siete su Blu Radio Veneto, la nostra pagina Facebook, dove ci trovate per gli aggiornamenti su tutte le nostre iniziative, soprattutto sui live, il sito bluradioveneto.it. The Bony King of Nowhere ha anche lui una pagina Facebook. People can find you on Facebook. And the name, of course, is The Bony King of Nowhere. Do you have also a web page, right? It's the Bony King of Nowhere .be, stands for Belgium. Yeah, la pagina web è thebonykingofnowhere.be, che appunto sta a Belgio come IT, sta a Italia. Vi ricordo anche che lui suonerà a Padova venerdì alla Mela di Newton, questo è importante, lo potete sentire, lo potrete sentire come stasera qui, appunto in versione acustica. E adesso ci ascoltiamo l'ultimo estratto dall'album, che si intitola Eleanor ed è distribuito fra l'altro dalla PS Record, che fra le indipendenti è una delle più grosse, ha un una serie di musicisti di altissimo livello, quindi una delle poche case discografiche veramente solide e affidabili nel mondo dell'indie, e che permette fra l'altro di trovare il disco in tutti i migliori negozi, come si diceva una volta. E dall'album ci ascoltiamo il brano intitolato Girl from the Play, poi ci risentiremo per i saluti finali e per naturalmente la buonanotte musicale di Bram. When I go outside and meet some friends, I don't understand any of their jokes. So titolo di questo brano, sempre un suono molto legato al folk, ma con delle melodie forse più pop. I'm saying that your music has a lot of folk in it, but you always want to have a pop hook, like you said before. No, I don't want to really have a pop hook, but just like every folk song, it needs a hook that you can remember, you know. It needs some kind of how do you explain a hook, you know? Yeah, salto la voce in Italian. Just si dice che in realtà lui non pensa a scrivere una canzone pop, che come anche le canzoni folk devono avere, io l'ho chiamato hook, ovvero sia il gancio, la cosa, la parte, il ritornello, la parte che ti prende, la parte che ti cattura e che ti resta in testa, something that stays in your mind. Indubbiamente lui ci riesce, come abbiamo sentito, con queste melodie molto molto azzeccate. Ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, naturalmente come nostra abitudine la buonanotte verrà augurata da Bram con la sua voce, con un'ultima canzone, che è una canzone che è come le uova, proprio fresca, di Jonathan, saying that this song is like eggs, made two days ago, very, very fresh. Mi sta dicendo appunto, voleva dire due cose su questa canzone perché è stata scritta a Roma. So you said that this song was written in Rome three days ago, tre giorni fa. Yeah, three days ago I was in Rome. I just came back from Sicily, so I had all the impressions from the Italian landscapes and the people I met, so I wrote the song. Better people know that you were driving from Sicily to Rome. Yeah, of course, I'm driving a car, yeah. Exactly, yeah, cause, yeah. Sì, allora lui ha detto che è arrivato a Roma dalla Sicilia guidando, quindi aveva negli occhi, in testa, un sacco di impressioni, di immagini del paesaggio e delle persone che aveva visto lungo la strada. It's not an easy driving. I mean, it's kind of long. It's not easy, but it's really fun because the landscape is it's really, really beautiful. It's astonishing. Yeah, of course, it's completely different from Belgium. I'm not really used to. Si dice che il viaggio sia abbastanza lungo e impegnativo, però gli è piaciuto molto. È stata una guida piacevole perché il paesaggio è molto, molto ricco e ha molti cambiamenti. Mm-hmm. Io ho fatto notare, insomma, è molto diverso sicuramente dal Belgio, soprattutto la parte montuosa. Fra l'altro non sembra neanche essersi la presa con i guidatori italiani. And you seem not to be angry with the Italian drivers. No, I learned to drive Italian in Sicily. Oh, okay. Ha preso lezioni di guida italiana in Sicilia. And I'm driving here in the north, I'm already quite dangerous because I'm used to the Sicilian way of driving, so I think people are already honking at me like, "Hey, you Sicilian!" Si dice che sta continuando a guidare nella maniera siciliana anche qui nel nord, quindi pensa che la gente lo stia mandando a quel paese pensando che sia un siciliano con targa belga, peraltro. So, what's the title of the song? It's a song I wrote for my lonesome girl. It's called My Lonesome Girl. Dice che la canzone che ha scritto per la sua ragazza solitaria è intitolata My Lonesome Girl, la mia ragazza solitaria. It's also some kind of ode to the Italian, to Italy. Actually, it's full of Italian images. Okay, dice che anche un'ode all'Italia è piena di immagini d'Italia, quindi siamo felici di che ci sia questo gemellaggio. We are very happy for this connection between you from another country and our country, e naturalmente speriamo di riaverlo nostro ospite la prossima volta che verrà in Italia. Of course, we are looking forward to see you again here for the next too. Time you are coming. And maybe with the band, I don't know, magari no, anche con la band la prossima volta, è sempre benvenuto. E con questa My Lonesome Girl chiudiamo questo appuntamento con Rock Wave. Naturalmente la canzone sarà dal vivo, dalla voce di The Bonnie King of Nowhere, e vi ricordo appunto venerdì sera alla Mela di Newton, così potete ascoltarlo e vederlo proprio di persona. È un appuntamento da non perdere. Naturalmente ringraziamo Agostino, come al solito inappuntabile, alla regia e ai suoni, e vi ricordo che Rock Wave torna poi tutte le sere dalle 22:30 alle 24 qui su Blu Radio Veneto. Thank you again for being with us. Thank you for Ram and also Cleo for a beautiful voice. Ringraziamo anche Cleo per la sua bellissima voce nella canzone che abbiamo sentito prima. E buonanotte a tutti i nostri ascoltatori e buon ascolto dalla voce di The Bonnie King of Nowhere. I'm going back to see if I can find my lonesome girl. I've been told that she's still living in that room on the corner. Oh, how I long to be again. Light green hills unfolding, then turning into blue. Meadow horses riding fast in the the Catanian sun, but I can only think of that lonesome girl of mine. Italian singers in the street playing their Spanish guitars, a young man crying heavily in the arms of Mona Lisa, but I can only think of that lonesome girl of mine. The Christian church standing so tall, its shadows now growing dull. A fortune telling lady shouting, the Roman Empire is dying. Oh, and I can only think of that lonesome girl of mine. Oranges in the burning sun, exploding the moment you touch them. Italian girls proudly parading in the Arabian part of town, but I can only think of that lonesome of mine. The gates of Rome are open now, restless and complaining. Diamonds shining in the sun, beggars collecting tin cans, and I can only lonesome girl of mine. Mother Wolf is howling now, the orphan baby's fighting. The elephants of Hannibal still stuck in the mountain. I can only think of that lonesome girl of mine. I'm going back to see if I can find my true love. I've been told that she's still living in that room on the corner, on how I long to be with her and never leave again. For I can only